Letture di Radio 24. Lo scrittore irlandese C.S. Lewis, autore del celebre ciclo fantasy Le cronache di Narnia, si era convertito al cristianesimo nel 1931, dopo aver conosciuto Tolkien all'Università di Oxford. L'autore del Signore degli Anelli in realtà sperava di convertirlo al cattolicesimo, ma alla fine Lewis optò per la Chiesa anglicana, quella che lui definiva una via di mezzo tra cattolicesimo e protestantesimo. La sua idea di religione era quella che lui definiva mere Christianity, ovvero cristianesimo così com'è, lontano da moralismi e stereotipi e più vicino al confronto con la vita di tutti i giorni. Nei testi presenti nella raccolta L'ultima notte del mondo, pubblicati originariamente tra il 1942 e il 1963 e ora tradotti per la prima volta in italiano, Lewis si sofferma in particolare sul rapporto tra l'uomo e l'assoluto e sul problema delle relazioni con gli altri, come si legge nel breve saggio Il mio rapporto con X. Credo di poter presumere che 7 su 10 dei lettori di questo articolo siano in difficoltà con qualche altro essere umano, che sia al lavoro o a casa, con il datore di lavoro o con il vostro sottoposto, con la persona che condivide il vostro stesso tetto o con coloro che vi ospitano, con i vostri suoceri, genitori, figli, vostra moglie, marito. Qualcuno vi sta rendendo la vita più difficile di quel che già non sia oggigiorno. Si spera che tali difficoltà, specialmente quelle familiari, non le andiamo a raccontare in giro, ma talvolta lo facciamo. Un amico vi chiede il perché del vostro stato sottotono ed ecco che la verità viene fuori. In tali occasioni l'amico di solito dice: «Ma perché non glielo dici? Perché non vai da tua moglie o da tuo marito, padre, figlia, capo o affittuario e non tiri fuori tutto?» Le persone di solito sono ragionevoli. Tutto quel che devi fare è di porre loro le cose nella maniera giusta. Spiegaglielo in modo chiaro, pacato e amichevole. E noi, al di là di quel che gli risponderemo, commenteremo tristemente nella nostra testa: evidentemente non conosce X. Noi sì che lo conosciamo. Sappiamo che è decisamente senza speranza provare a convincere X. Peraltro ci abbiamo provato un'infinità di volte. Ci abbiamo provato fino alla nausea, o altrimenti non ci abbiamo mai provato dal momento che eravamo consapevoli, fin dall'inizio, che sarebbe stato tempo perso. Anche se diventaste milionari, vostro marito continuerebbe ad essere prepotente, o vostra moglie a tormentarvi come al solito, vostro figlio a ubriacarsi e vostra suocera vivrebbe ancora in casa con voi. È un bel passo in avanti capire che le cose stanno così, affrontare il fatto che anche se tutte le cose esterne andassero bene, la vera felicità dipenderebbe ancora dal carattere delle persone con le quali dovete vivere, un carattere che non potete cambiare. E siamo dunque giunti al punto. Capito questo, ecco che per la prima volta avrete un'idea di quel che deve probabilmente accadere anche a Dio. Egli ha dato alle persone un mondo ricco e meraviglioso. Ha pianificato che ciò di cui hanno bisogno per la loro vita biologica dovrebbe essere decisamente delizioso. E avendo fatto ciò, egli vede infine il suo piano rovinato, proprio come vengono rovinati i nostri, dalla disonestà delle persone. Ogni cosa che egli ha dato loro per essere felici si trasforma in occasione di polemica e di gelosia, di eccessi, di accaparramento e di ignobile farsa. Potrete dire che per Dio la questione è diversa, poiché egli potrebbe, se lo desiderasse, alterare il carattere delle persone, cosa che noi non siamo in grado di fare. Dio si è posto una regola, quella di non alterare forzatamente il carattere delle persone. In tal modo ha davvero limitato il suo potere. Talvolta ci chiediamo perché lo abbia fatto, o addirittura desideriamo che non lo avesse fatto. Tuttavia, apparentemente ritiene che ne valga la pena. Preferisce infatti un mondo di persone libere, con tutti i rischi connessi, a un mondo di esseri che si comportano come macchine, dal momento che non potrebbero fare altrimenti. Più riusciremo a immaginare quel che sarebbe un mondo di perfetti automi, più comprenderemo la sua saggezza. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di C.S. Lewis, L'ultima notte del mondo, Castelvecchi Editore, 140 pagine, 16 euro. Letture di Radio 24. Il nuovo femminismo, a volte, più che rivendicazione, diventa una lagna, come commenta Guia Soncini in un articolo pubblicato sull'ultimo numero del magazine Il. È una stronzata che si chiama Bechdel Test. Serve per valutare se un film è sessista. Lo è qualunque film in cui non ci siano due donne di cui si conosca il nome, cioè due personaggi di una certa rilevanza, che parlano tra loro di un argomento che non sia un uomo. Gravity è quel film che ha vinto 7 Oscar nel 2014, quello in cui ci sono solo due astronauti, lui nella stazione, lei in orbita. Era la parte che tutte le attrici volevano, in una Hollywood che ha iniziato a dire non ci sono più ruoli per le donne da così tanti decenni che ormai tutti i cast dovrebbero essere di soli maschi. Una protagonista assoluta di un film di fantascienza, per di più diretto da un autore prestigioso, Alfonso Cuarón. Sandra Bullock, che alla fine ha ottenuto la parte, ha guadagnato 70 milioni di dollari, aveva una percentuale sugli ottimi incassi. L'avete già capito, Gravity non passa il test di Bechdel, è tecnicamente un film maschilista. Jenji Kohan è la capoprogetto di Orange is the New Black, la serie TV di Netflix ambientata in un carcere femminile. Quest'estate ha dato un'intervista all'Hollywood Reporter in cui affrontava l'annoso tema dell'equal pay, a parità di competenze donne e uomini hanno diritto allo stesso stipendio. Diceva che il suo migliore amico, Matthew Weiner, a capo della serie Mad Men, fatturerà 30 milioni di dollari per le ultime 3 stagioni del telefilm e lei si chiede: perché io non guadagno altrettanto? Nell'intervista Cohan non si risponde perché sei meno brava. Non può non saperlo. Gioca nel campionato dei grandi, avrà un manager, un avvocato e un agente almeno, preposti a trattare i suoi compensi. Non è un'operaia alla mercé del padrone, è una professionista del settore più competitivo che ci sia, la TV americana. Sa benissimo che Shonda Rhimes, la tizia che si è inventata Grey's Anatomy e Scandal, è l'essere umano che guadagna di più in quel campo. E che prima di lei il primato era di Oprah Winfrey, anche lei donna, anche lei nera. Nei settori dove conta solo quanti soldi fai fare, non importa a nessuno con che organi sessuali o con che colore di pelle tu lo faccia. Se Cohan fa la lagna femminista, invece di cambiare agente e trovarne uno che le tratti un cachet più alto, è perché la lagna femminista è ovunque. È maschilista L'amore bugiardo, il thriller da cui David Fincher ha tratto il film che sta per uscire. La protagonista è una stronza senza appello. Pure il marito non è che sia una chicca d'uomo, eh? Ma che c'entra? Se scrivi una lei malvagia è perché odi le donne. L'autrice, Gillian Flynn, è una donna. Dare dei maschilisti agli uomini era troppo facile, serviva un upgrade. È maschilista la trilogia di 50 sfumature, perché, ehi, lui è un maschio dominatore nonché miliardario. Capisco che 2000 pagine di porno soft, in cui il porno è molto blando, non vada di leggerle a nessuna zelante editorialista, ma se l'avessero fatto, saprebbero che il maschio dominatore abbandona le sue perversioni praticamente subito, redento dalla vergine, e che tutta la storia è la fantasia sessuale di una donna molto pigra e molto servita e riverita. Lui, causa traumi infantili, non vuole essere toccato, il che è una bella comodità. Anche l'autrice delle sfumature è una donna, ma chiaramente odia le donne, se no mica avrebbe fatto lei vergine e ingenua e lui ricco e prepotente. Se il tic sessismo fosse esistito negli anni Ottanta, le critiche a Dirty Dancing, quel film in cui la vergine portava cocomeri e il ballerino la conduceva in abissi di dissipazione e mambo, sarebbero state esilaranti. Ma è una moda recente. Femminismo ha sostituito commercialmente amore. La parola che una volta gli editori assicuravano facesse aumentare del 20% le vendite dei libri. Può la rivendicazione femminista privare le donne di evidenti vittorie di categoria, quali film dove fanno le astronaute e guadagnano pure cifre ragguardevoli? No, certo. Quindi si trova una scappatoia per la regola. Ma certo che passa il test. Sandra Bullock parla col fantasma della figlia. È morta, d'accordo, ma è femmina. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Guia Soncini «Questo non è sessismo», dal numero di ottobre del magazine Il. Dal 2010 al 2013 le adozioni internazionali in Italia hanno registrato un calo del 30% e per quest'anno si prevede un'ulteriore diminuzione del 30%. Da una parte ci sono migliaia di bambini che attendono di essere adottati, dall'altra ci sono migliaia di coppie che vorrebbero adottarli, che sono sempre più scoraggiate dalle difficoltà e dalle lungaggini burocratiche. Simone e Romina aspettano un foglio. Da 8 mesi sono in attesa di un documento di carta che permetta loro di adottare un bambino in Kenya. Un'attesa che si sta avvicinando paradossalmente ai tempi di una gravidanza vera. I documenti li hanno già tutti preparati e consegnati mesi fa. Dossier fotografico, condizione sociale, resoconto economico. Il Kenya non ha creato ostacoli, ma ha chiesto alla Commissione Adozioni Internazionali Italiana un semplice attestato che confermi che l'AIBI, l'associazione attraverso cui Simone e Romina intendono adottare, sia autorizzata a operare. Quel foglio però non è mai arrivato. «È tutto fermo», racconta Simone. «Abbiamo fatto 4 solleciti scritti, telefonate, email. Niente». Il problema è che nella situazione di Simone e Romina si trovano decine di altre coppie italiane. Ci sono associazioni che aspettano l'autorizzazione, oltre il rinnovo dell'accreditamento, altre ancora la conclusione dell'iter adottivo. L'ingranaggio delle adozioni sembra inceppato. A Roma tutto tace. Uniti per l'adozione, la rappresentanza che raccoglie 45 delle 62 associazioni che in Italia sono autorizzate a operare, a fine settembre ha inviato una lettera alla Commissione Adozioni Internazionali per sbloccare la situazione, ma non ha ricevuto risposta. E lunedì scorso si è riunita per decidere che azioni intraprendere. «Da quando si è insediata la nuova commissione non riusciamo ad avere più rapporti continui», denuncia Pietro Ardizzi, portavoce della rappresentanza. Al di là di una riunione plenaria avvenuta in luglio, sono spariti i tavoli sulla fiscalità, sulle procedure delle linee guida, sui singoli paesi. Ma noi dobbiamo lavorare con le famiglie, in un settore molto delicato. Ogni ritardo burocratico è un problema serio. L'avvento del nuovo governo sembrava aprire una nuova era. Un premier, Renzi, per la prima volta aveva deciso di assumere su di sé la presidenza della Commissione Adozioni Internazionali. Un segnale forte, che faceva sperare. Mesi dopo, quelle speranze se le sono mangiate le pastoie burocratiche e un dialogo non proprio fluido. Alle riunioni dell'AIBI ci sono una decina di famiglie che si trovano in questo limbo demenziale, racconta ancora Simone. Qualcuna attende da 1 anno e mezzo e abbiamo visto genitori scoppiare in lacrime. Non vedo perché si debba agire creando disagio, preoccupazione e dolore a famiglie che dovrebbero essere anzi incoraggiate, se non prese ad esempio. Insomma, qui non stiamo andando ad acquistare un SUV. Non stupisce che il settore sia in difficoltà, complice anche la crisi economica. Tra il 2010 e il 2013 si è avuto un calo del 30% delle adozioni internazionali e, secondo le stime delle associazioni, quest'anno si registrerà un ulteriore calo del 30%. Forse si arriverà a 1.600 ingressi di minori stranieri in Italia. È come tornare ai livelli del 2001. «C'è scarsa attenzione a questo settore», denuncia ancora Ardizzi. Per la fecondazione eterologa, i governatori delle regioni si sono incontrati e in 25 giorni hanno predisposto un protocollo comune. La legge sulle adozioni internazionali è di 14 anni fa e attualmente solo 4 regioni italiane hanno un protocollo funzionante. Simone e Romina ancora sperano. Almeno nelle gravidanze una sicurezza nella tempistica c'è. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Rafael Zanotti, Caos adozioni internazionali, famiglie in attesa da mesi, dalla stampa del 14 ottobre.